20. Joseph allungò il giornale con un gesto veloce, come se temesse di essere spiato da qualcuno. «Guarda qui!» Philip osservò il compagno. Sembrava stupito. Prese i fogli della gazzetta e cominciò a leggere. Joseph guardò oltre il parapetto. La cupola di St. Paul si innalzava sui tetti della City. Era l'architettura più grande che avesse mai visto. Gli occhi la cercavano sempre. La sua imponenza era una conferma. Il piccolo traghetto risaliva al Tamigi in un traffico simile a quello delle strade. Joseph e Philip avevano accettato il consiglio di un cameriere del Cigno. Il solo modo per vedere Londra standosene tranquilli, aveva detto. Non c'era voluto molto a capire che il proprietario e pilota del battello era un suo parente, ma, fatta eccezione per l'odore che saliva dal fiume, si era rivelato un buon consiglio. L'acqua sciabordava sulle fiancate. Dalle rive giungevano echi lontani. Alla fine Philip spezzò il silenzio. «Questa gente crede che tu sia un re. Accadde anche a Hendrik». Philip fece un gesto con la mano. «Non è solo questo. Ci sono persone qui che vorrebbero sottomettersi a te, alle sei nazioni. Sono solo dei pazzi. Tu sai cosa pensa la nostra gente. Spesso il padrone della vita parla per bocca dei folli. Ciò che abbiamo veduto di questa città è quel che ci hanno fatto vedere». Le parole risuonarono nell'aria. Philip riconsegnò il Daily Courant. Gabbiani si abbassarono sul battello mandando lunghe strida. Philip guardò il fiume che scorreva placido e i natanti attraccati ai pontili, dondolati dalla corrente. Joseph sentiva la stanchezza delle ultime giornate. Era stato un susseguirsi di ricevimenti, visite, interviste. Parlò con voce roca. «Ho accettato questa parte per schiudere la porta del re. Ho ottenuto il suo rispetto, l'impegno a difenderci. Il resto non ha importanza». Philip prese a caricare la pipa, in silenzio. «Quando torneremo indietro, verrà il momento delle scelte», riprese Joseph. «La lunga casa dovrà decidere quale bandiera issare. Qualcuno dovrà convincere i guerrieri. Potrebbe farlo, piccolo Abramo? Show nonsense? Un altro qualunque dei Sakem?» «No», rispose Philip. «Io sono Joseph Brandt Tagliandanega, del clan del lupo, parente di Sir William Johnson, interprete del dipartimento indiano, amico del re d'Inghilterra e beniamino della gente di Londra. C'è qualcuno nella lunga casa che può vantare titoli più validi?» Scosse il capo. Attese la risposta di Philip che non arrivò. Il battello scivolava lento nella luce del pomeriggio. I raggi del sole colpivano l'acqua, accecando chi guardava a occidente.